piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Noi camionisti possiamo andare ovunque. Alle 6 del pomeriggio è tutto chiuso. Sono riuscito per sbaglio a fare colazione stamattina, ma non ti dico quanto tempo ci ho messo, perché uno un metro di qua, quell'altro non si avvicini al bancone. Ieri sera non ho neanche cenato. Gli autogrill chiudono, tutti i ristoranti e trattorie per camionisti chiudono. Stanotte ho dormito di fronte a un carcere, su un parcheggio di un distributore squallidissimo, in mezzo al niente. Ho cagato e pisciato su un'aiuola. Non siamo delle bestie, siamo delle persone. Diamoci una regolata, tiriamoci su le maniche e facciamo vedere chi cazzo siamo, perché è ora di finirla. Questa è la voce sconsolata di un camionista che probabilmente fa parte delle poche persone che ancora percorrono le nostre strade, le nostre autostrade. Noi stiamo per la maggior parte dentro casa nostra, almeno quelli ligi alle ordinanze. I disagi di chi sta a casa sono stati già enumerati da questa mattina da tutte le persone che hanno chiamato, già sono stati ospiti dei miei colleghi. Io vorrei soltanto portare alla vostra memoria un testo, il diario di Anna Frank, dove si parla di una famiglia che è stata 2 anni chiusa dentro un appartamento, anzi in un tramezzo in un appartamento, e con persone anche strane, dovevano fare piano, non dovevano camminare, non farsi sentire, e la loro maniera di uscire sarebbe stata quella di essere portati in un campo di sterminio. Ecco, in fondo noi siamo nelle nostre case con il nostro wifi, con le nostre televisioni digitali, con la possibilità di entrare in contatto con tutte le persone che vogliamo, ben nutriti, ben riscaldati, ben vestiti. Non è che ancora stiamo sfiorando i limiti della tragedia individuale. Se già vi serve lo psichiatra per stare una settimana dentro casa, beh ragazzi, le generazioni che ci hanno preceduto erano fatte di ben altra pasta. Detto questo, dicevo, oggi voglio parlare con le persone che sicuramente ci ascoltano perché stanno in automobile o stanno in un camion o stanno in un qualsiasi automezzo e fanno quello che hanno sempre fatto, perché a loro è consentito, anzi loro sono obbligati a andare in giro e stare per strada. E com'è la loro vita? Com'è la vita delle persone che in questo momento rappresentano un'eccezione? Quella che per loro è la norma è per tutti noi un'eccezione. Qualcuno magari li invidia, dice beati loro, in questo momento vanno per strada, non c'è nessuno, si fermano agli autogrill e non c'è nessuno, troveranno tutto pulito. Beh, non credo che sia esattamente così. Oggi voglio dedicare la trasmissione al pubblico sulle ruote, in particolare ai camionisti. Spesso ho parlato con i camionisti, è un pubblico attento, è un pubblico che non perde una battuta e non ti lascia andare un pensiero se non è passibile comunque di critica da parte loro. E quindi oggi volentieri mi apro ai camionisti che ci ascoltano. 800240024. Roberto è il primo che è in linea. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso confermare il messaggio del collega di prima e tutto quello che hai detto tu? Solo disagi, purtroppo. Tu esattamente fai esattamente la stessa vita che hai sempre fatto in questi sì. Giorni. Non è che sì. A te è possibile rimanere chiuso dentro casa, figurati. Sì, io devo viaggiare per lavoro, la ditta che abbiamo noi è il settore dei rifiuti, che non ci possiamo fermare. Andiamo sempre in giro e niente, siamo in totale disagio perché non abbiamo più niente. Adesso addirittura l'autogrill su a Zanzenone prima di Milano ha chiuso, proprio ha chiuso anche il parcheggio per i camion, e lì c'erano 500 posti. Trovare da mangiare è impossibile dopo le 18. Ma anche cominciamo Roberto a capire quali sono i disagi. La strada è libera, questo è un vantaggio. Sì, è l'unico vantaggio. Che vado, quindi camminate soltanto voi per strada? Solo noi e qualche vettura, guarda, ma solo noi. Io da Lecco per arrivare su alla barriera di Milano praticamente è un 15 minuti, mai successo da quando faccio questo lavoro, che ci sono sempre colonne infinite in un tratto. Solo noi trasportatori, solo noi, andiamo in piedi. Ecco, quando arrivate dal vostro cliente a consegnare la merce, ad esempio, trovate persone che però vivono nella blindatura che attraversa tutte le vite di noi stanziali. Sì, come allora, si comportano con voi? Ecco, allora, prima eravamo, diciamo, un'allergia per le segretarie che erano dietro al vetro. Adesso siamo il coronavirus, praticamente. Aprono quella porticina di vetro, ti buttano quel foglio per il carico e richiudono immediatamente. Cioè, il foglio cade per terra, tu ti devi abbassare. Cioè, te lo tirano fuori dalla finestra? Sì, dalla porticina di vetro. I colleghi possono convertire, non ti puoi nemmeno avvicinare, c'è una linea tratteggiata che non ti ci puoi avvicinare alla segretaria, perché lì, capito, è la classica. Ti buttano quel foglietto. Ma per salvaguardare la virtù della segretaria o per salvaguardare il mondo dal coronavirus che voi potreste portare? Qual è il problema? Non lo so, ma io penso per mettersi, diciamo, in sicurezza loro, perché dice che noi camionisti, siccome andiamo in giro, siamo soggetti a rischiate. Sì, rischiamo, che poi tra ma in realtà, scusa, cosa rischi? Niente. Rischi meno degli altri perché stai niente, sempre dentro, guardi, il tuo camion. Mi può credere, io praticamente adesso andiamo in giro noi in tutta Italia, niente, perché praticamente noi non stiamo a contatto né con carrellisti, né con segretari, né con persone che caricano, né con niente. Noi siamo, ti fanno stare sul camion, scendi, guardi come stanno caricando, il carrellista è lontano da te 4-5 metri, niente, richiudi tutto. Ti rimetti i guanti, vai in pesa, fai la pesa, vai dal segretario, ti butta quel foglio, ti butta il DDT e parti, finito. Gli autocritici. Senti una cosa, ma come fate la sera? Perché alle 18 è tutto chiuso, dove mangiate voi? Io sono fortunato, la maggior parte dei camion moderni di adesso hanno il frigo incorporato, io mi porto a mangiare da casa, però calcola che è sempre pranzo freddo, insalata di riso. Perché diciamo, ma gli autogrill sono aperti? Allora, la maggior parte solo per il posteggio, e per il caffè, basta, non né panini né pranzo. San Zenone purtroppo ha dovuto chiudere perché, come il classico italiano, che cosa fa? Va a rubare dentro l'autogrill, devastato, capito? Quindi hanno proprio. Come devastato? No, questa non lo so, cos'è successo? Sì, vanno dentro i bar, cercano di aprire, di entrare, rubare quello che si possono, quello che riescono a prendere. Perché ma scusa, perché non c'è nessuno? Fammi capire allora, questa cosa. San Zenone è proprio chiuso, cioè non c'è proprio nessuno. Adesso mi sembra che prima l'avevano riaperto, adesso è proprio chiuso, cioè non c'è nessuno dentro. Invece gli altri autogrill sono chiusi per il pranzo e per la cena, però c'è una ragazza che ti fa il caffè e ti serve la brioche se riesci a trovarla, perché è impossibile, la mattina non trovi più. Quindi niente, c'è diciamo un servizio anche limitato. Bene, sentiamo intanto Roberto, buon viaggio. Da che parte Grazie. Sei adesso? Dove ti trovi? Io adesso fortunatamente sono a casa e non sono ripartito. Quindi racconti l'esperienza. Sentiamo invece Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Tu sei molisano? Io sono di origine. Sono campano, sono vissuto a Potenza per tanti anni e mi trovo a Montenegro di Bisaccia da una decina. Ascolta, io la patria di Pietro. Adesso dove sei invece col camion? Adesso sono ad Ancona, direzione Torino. Ascolta, io volevo solamente dire che quello che ha detto nell'introduzione il primo collega che avete mandato, non so se era registrato. No, che era in diretta. Non questo qua di adesso. Sentite qualche rumore, perché io, ripeto, sto trasmettendo da casa mia. Se andate a vedere nella pagina dello streaming di Radio 24, vedete il mio civettuolo studiolo, cioè la mia libreria, e me in maglietta seduto sulla mia poltrona che sto trasmettendo, quindi ogni tanto mi muovo. Uno dei vantaggi di essere un giornalista, vedi, di lavorare da casa. Noi purtroppo col camion non abbiamo il telecomando per fare il lavoro da casa. Diciamo che mi sono organizzato, perché altrimenti non potevo trasmettere, non potevo uscire, quindi non potevo trasmettere. Tra un paio di giorni potrò uscire e potrò forse fare anche altre cose. Senti una cosa, allora, tu confermi i disagi del tuo collega e altri da aggiungerne? Qual è il punto di vista? Sì, i disagi sono prettamente questi, cioè sono relativi al nostro approvvigionamento per mangiare o per cenare e i servizi igienici. Poi per il resto diciamo che abbiamo dei vantaggi, la strada è libera. Perché i servizi igienici? Scusa, non ci sono le piazzole di uno può fermare di sosta? Tu calcola che fino alla settimana scorsa gli autogrill chiudevano alle 18 e siccome i servizi igienici sono tutti all'interno degli autogrill, chiusi i servizi di autogrill hanno chiusi anche i servizi igienici. No, ma fammi capire. Cioè in Italia chi viaggia in autostrada, adesso camionista o non camionista, sì, uno potrebbe essere, se va dopo le 18 non trova dei gabinetti a disposizione? Se sono chiusi no, si sono aperti sì, li trovi, ma se sono chiusi per decreto legge, come era fino alla settimana scorsa, tu non trovi più nulla. Perché oggi invece sono aperti? Oggi sono aperti, però come diceva il collega, per quanto riguarda ristorazione, sono chiusi comunque, non ci garantiscono questo. Ma poi la cosa più brutta è quello che diceva sulle segretarie quando vai nelle aziende, questa è la cosa brutta perché ci trattano come appestati. Dall'altra parte del vetro loro invece tutti tranquilli, senza mascherina, come se fosse che questo problema riguarda solo noi autisti. Cioè, allora rivolgo, vediamo che visto che in questo momento le persone forse hanno un pochino più di tempo, rivolgo un messaggio particolare, se possono chiamare all'800240024 le persone che hanno un lavoro amministrativo nelle aziende che si trovano a contatto con i camionisti che arrivano. Avete veramente questo senso di differenza e di particolare attenzione? Ora non dico che non bisogna stare accorti o tenere comunque fede a quelle che sono i dispositivi di sicurezza che ci sono stati suggeriti, anzi ci sono stati siamo stati invitati a seguire. È logico, una persona che viene da fuori non si può avere una distanza inferiore al metro, ma magari piuttosto che tirarglielo in faccia così esiste una maniera più gentile per non farli sentire degli emarginati. Sentiamo Susanna, camionista. Buongiorno Susanna. Buongiorno. Intanto dico chi vuole può chiamarci all'800240024, siamo in diretta, stiamo parlando con amici camionisti, ma può chiamare chiunque si trovi per strada. In questo momento l'argomento che vorremmo toccare è le persone in forzato e necessario movimento. Susanna, trova anche lei una difficoltà quando arriva a scaricare la merce? Anche a lei tirano le segretarie il foglio addosso? Sì. Oppure oggi sono arrivata qua, sempre andiamo lì all'ufficio e stavo mandando non potete venire qua, andate in fondo abbiamo trovato una scala, cominciamo a salire, no siete camionisti, no fuori è fuori dentro del magazzino, adesso hanno messo un gabbiotto lì dentro il magazzino con una catenella lì che tu non ti puoi avvicinare di tanto, pertanto è vero. Cioè c'è un percorso protetto per camionisti. Ora però Susanna, cerchiamo di capire insieme, perché in effetti chi sta dentro deve salvaguardarsi da chi viene da fuori. Sì. Quale potrebbe essere una forma alternativa, senza che vi sentiate come degli appestati, ma che allo stesso tempo possiate fare serenamente il vostro lavoro? No, va bene. Quello lì di mantenere distanza, di fare cose un po' di sicurezza va bene, però anche come hanno detto i colleghi di prima, chiudono i bagni, i camionisti devono andare in bagno anche, no? Dopo non lo so, si arrabbiano perché pisciano di qua o di là, dappertutto, però poi per una signora è un pochino più complicato, diciamo, farla tanto, per strada. Sì. Come risolvite il problema, Susanna? No, io ho un paio di posti perché dopo del mattino che sono andata a Verona, di Verona sono qua a Novara, però dopo torno in aeroporto e in aeroporto sì, trovo dove andare in bagno. Pertanto, ma quindi vai fino all'aeroporto. Aspetto. Cosa trasporti, Susanna? Cosa trasporti? Oggi sto scaricando un rimorchio di un collega con le gomme, però di solito porto roba di aeroporto che va in aereo cargo. Quindi tu fai un percorso verso quale aeroporto? Bologna e Malpensa. A Bologna e Malpensa, cioè, questo è il tuo tragitto e tu riesci a risolvere il problema dell'immediatezza dei tuoi bisogni, perché nell'aeroporto i bagni sono funzionanti, invece c'è una carenza di bagni aperti lungo l'autostrada. Sì, lì ci sono tanti uffici, tanti piani e sempre trovi qualcuno che è aperto. Grazie Susanna. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca, ciao, grazie intanto per la trasmissione. Anche tu sei un camionista? Sì, da 30 anni quasi. Grande. Dove sei adesso? Ricco Nord-Est, qua deserto, fra Padova, Venezia, Belluno, tutto il nord qua, Nord-Est. Cioè hai l'impressione di attraversare il deserto? Sì, da questo punto di vista è una figata, cioè come si lavora bene, però hai sempre l'oppressione di dove vai, i contatti che puoi prendere in giro, ma ti dico, ci sentiamo anche noi in guerra come i medici, come loro, siamo parte di tutto, capisci come? Immagino che l'Italia, diciamo, per voi sia il quotidiano professionale leggermente più solitario di quanto lo fosse prima. Già i rapporti probabilmente non erano poi diffusissimi per chi sta tutto il giorno seduto in un camion, ma non avete più nemmeno il ristoro quando vi fermate a una sosta di fare due chiacchiere. Fra di voi potete parlare quando vi fermate a una piazzuola, oppure anche voi tenete le distanze di sicurezza? Come tutti, cioè, teniamo un po' le distanze, ma cosa vuoi, dobbiamo correre come matti sempre. Quindi il tempo è già poco. Abbiamo il baracchino, che allora facciamo due chiacchiere, ma e il telefono, auricolari, insomma, come tutti, dai, non abbiamo proprio questo senso di solitudine. È come dicevano i colleghi, disagi fisici, ma per chi come me alla sera rientra a casa, tutto sommato passa via, dai, insomma. Ecco, ci fermiamo solo un attimo. Grazie intanto anche te, buon viaggio, buon proseguo. 800240024. Oggi dedichiamo una puntata speciale agli italiani che viaggiano lungo le nostre strade con i camion. Sono costretti a farlo, è il loro lavoro, e il fatto che lo facciano fa sì che noi possiamo mangiare e avere una vita apparentemente abbastanza normale, quindi è giusto sentire le loro voci. A tra un istante. Melog 800240024. Questa mattina diamo voce ai camionisti, ma anche ad altre persone che in questo momento stanno guidando lungo le strade. Abbiamo riassunto un ventaglio di disagi che però sono innegabili, è difficile capire come potrebbe essere altrimenti. Trovano delle bellissime autostrade libere, questo sì, ma trovano difficoltà poi quando si fermano ad avere il minimo ristoro necessario. Trovano una spiccata diffidenza quando vanno a scaricare la merce da parte del personale che deve scambiare con loro le bolle di trasporto, la documentazione. Questo pure è abbastanza comprensibile, però è un disagio che merita di essere raccontato oggi, visto che grazie agli autotrasportatori noi possiamo fare una vita apparentemente nei limiti della norma, e quindi oggi li facciamo parlare. Sergio dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie che ci dai questo spazio stamattina. E niente, dai, la maggior parte delle cose l'hanno già menzionate i miei colleghi. Io una cosa vorrei dire al ministro dei trasporti: cioè, le fabbriche tutelano gli operai che chiudono o dimezzano o fanno, e a noi quanto trasporto oggi che non serve per l'emergenza che stiamo affrontando cammina su strada. Noi non fammi capire, no, questo cosa vuole dire con questo? Ci sono, diciamo, merci che non, esempio, secondo te non c'è bisogno che transitino, ad esempio? Esatto, ad esempio per esempio il trasporto delle macchine, il trasporto del materiale per costruire le navi. Cioè, non credo che è un'emergenza costruire una nave oggi, non è un'emergenza consegnare la macchina. C'è il trasporto del ferro vecchio, ce ne sono. Però io guarda, non entro in merito, scusami un attimo, scusami Sergio, non entro in merito a temi che sono complessi e bisogna averne una conoscenza capillare. Però a naso ti dico, se si ferma tutto, si fermano anche le filiere collegate al trasporto delle macchine, allo stoccaggio delle macchine, agli autosaloni. Sai, sarebbe complicato se un domani che la vita tornerà nella norma, poi tutto fosse ingolfato. Almeno le macchine saranno già consegnate, pronte per essere vendute, e il ferro vecchio sarà già portato dove deve essere smaltito. Insomma, non è che si ferma tutto. Tanto le strade mi sembra di capire che sono abbastanza sgombere. L'ultimo dei vostri problemi è proprio quello del traffico, o sbaglio? Ma lascia stare il traffico giornaliero, perché ormai sono anni e anni che noi facciamo, cioè, siamo in mezzo alla strada e combattiamo con il traffico, con le ore purtroppo di guida che abbiamo, che ben sia, perché è per noi il riposo, la cosa, per l'amor di Dio, sono leggi che fanno parte ci tutelano a noi. Ma qual è il problema nuovo? Lascia perdere quelli vecchi, che poi ne parlate con la rubrica dei camionisti. Ma il problema oggi, perché noi dobbiamo camminare per l'economia e non essere tutelati? Cioè, secondo te di quale tutela avresti bisogno? La tutela è che noi oggi non possiamo andarci a fare una doccia, cioè ci laviamo con le bottiglie, i servizi chiusi. Quello che hanno già detto i tuoi colleghi, Sergio, è chiaro. Enrico, provincia di Milano, Enrico. Sì, pronto, buongiorno, è un piacere parlare con lei. Allora, il suo punto di vista rispetto a quanto detto dai suoi colleghi finora. Ok, premesso che io faccio questo lavoro da 35 anni, mi alzo la mattina alle 5-6 e finisco alle 5-6 di sera, perciò penso che dopo quell'orario lì probabilmente tanti problemi ci sono. Quello che mi dà un pochettino fastidio è che mettersi a paragone di medici o di altre persone, che in questo momento qui veramente per noi tutto sommato, adesso per l'amor del cielo è vero, ci prendono, ci trattano un pochettino come se siamo infettati in alcune aziende, anche se poi oggi questo problema qui non c'è, perché anche i DDT, le bolle vanno tramite online, perciò non ricevono neanche le bolle e tanto non viaggiamo anche senza, perciò non è neanche quello. Però ripeto, non vedo, anzi, siamo in giro, che noi nel nostro lavoro, per me, parlo per me, stare chiusi in casa morirei, perciò grazie al cielo. Quindi lei comunque è dell'idea che, rispetto al suo collega che voleva, diciamo, anche loro delle tutele, lei dice: il lavoro non lo mollerei mai, perché poi che faccio a casa? Io vi dico, in certo modo, molti in questo momento fare i paragoni è totalmente impossibile, perché figuriamoci, le situazioni sono talmente differenziate secondo l'equazione individuale di chi si pone il pensiero. Io ad esempio sto benissimo a casa, perché passo a casa gran parte del mio tempo, passo le estati sigillato qui dentro, quindi a me cambia poco. Per altri, non andare a prendersi l'aperitivo, non vedere le amiche, non andarsi a depilare il linguine può essere una situazione che è vicina al tracollo psichico. Però anche per lei capisco che dice: mai dove vado tanto? Viaggiare viaggio, e cerchiamo di capire quali sono i disagi che si possono ovviare, e dice: stanno un po' esagerando i miei colleghi. Sentiamo Sam, buongiorno. Buongiorno, salve Gianluca. Ciao, ma tu hai già chiamato un'altra volta o sbaglio? Sì, un mese ci siamo sentiti mesi fa, chi l'avrebbe mai detto? Guarda, chi l'avrebbe mai detto questa volta? Ci sentiamo con la maschera in faccia, davvero. Davvero, guarda, io sono disperato, davvero. Sono qua a Brescia, un casino. E tu sei proprio in una zona abbastanza critica, però. Ecco, com'è la situazione lì, vista dall'autostrada? Sì, dall'autostrada tutto può, però delle ditte che io ho andato stamattina, come aveva detto l'altro collega. Oh, giuro, sì. Mi ha detto anche non scendere dal camion. Cioè, qua siamo... non ci hanno detto non scendere dal camion? Sì, non scendere dal camion, come faccio? Io devo andare sul computer, metti i dati miei per caricare. Cioè, qua stiamo andando oltre con i camionisti. Però, Sam, tu devi anche capire che chi sta dall'altra parte, gli viene detto costantemente: non ti avvicinare a un metro dalle persone, pulisci tutto, stai attento ai contatti. La gente sta a un metro di distanza anche per fare la fila al supermercato. Come risolveresti questo problema, secondo te? Facendo tutto a distanza? Non c'è bisogno che digiti nel computer? Tengo sempre il metro di distanza, c'ho i miei guanti, c'ho le mie maschere e tutto quanto, però è impossibile uno viene da te a portarti via la merce, io carico l'acqua da portarla in Germania, cioè uno viene e dice buttagli i documenti e vai sul camion, non c'entra neanche, cioè io sono prima andato a Bergamo, adesso sono a Brescia per la dogana, devo imbarcare questo, prendo un altro e tornare ancora a Madoni, per sempre all'acqua faccio. Adesso ma lo scarichi te il camion? No, te lo scarica qualcun altro. Lo caricano loro, però trovi qualcuno, un mulettista che sai, sono un po' ti dicono non fare questo, non fare questo. Cioè, prima si trafavano anche bene, ti andavano a prendere caffè, adesso non puoi neanche avvicinarli. Cioè, addirittura, cioè, siamo arrivati in punto. Non è che fine il mondo. Guarda, questo non è che ti voglio confortare, ma credimi. Oggi abbiamo delle meravigliose ostentazioni di fratellanza e amor patrio, tutti si affacciano alle finestre, le sei cantano e si mandano gli abbracci, ma se incontri un vicino di casa nel pianerottolo, abbassa la testa e corre giù per le scale per non incrociarti. Questo sta accadendo in tutta Italia, quindi fattene una ragione, Sam, in bocca al lupo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco. Buongiorno. Marco, ti ascolto. Sì, io volevo solo ribadire questa cosa che hanno detto i miei colleghi, però non è esattamente così. Se le regole, io capisco che la diffidenza verso di me, ma le regole le dobbiamo rispettare tutti. Se io entro in uno stabilimento che solo io mi devo mettere la mascherina e 100 operai, ditte esterne e chiunque entra non ha né mascherina e né guanti, mi sembra una discriminazione e basta, ecco. Posso dirti una cosa, Marco? Sì, lo prego. Capisco, sto cercando di immedesimarmi nello stato d'animo di chi arriva con un camion, arriva in uno stabilimento e dicono mettiti la mascherina e i guanti se non entri. Però sai, anche per la tua sicurezza, proprio perché ci stanno centinaia di persone lì dentro, stai più tranquillo anche te una volta che torni a casa, cioè tu anche dei figli, una famiglia, stai più tranquillo anche te, tutto sommato non la sentirei come una discriminazione. Cioè mettersi la mascherina e mettersi i guanti, o la richiesta di mettersi guanti e mascherina, non deve essere vista come un marchio d'infamia, non è una lettera scarlatta che ti segna. Sono le persone che oggi, in un momento molto critico, ricordano delle norme che tutti dobbiamo tenere conto. Come quando vai a fare l'amore e ti dice una donna mettiti il preservativo, non è che ti devi sentire offeso, dice mica ho malattie, e lo fa anche per la tua tranquillità. Antonio, provincia di Vicenza. Sì, buongiorno ti ascolto. A tutti. Ascolta, io sono un camionista, sono di Belluno, però comunque sto percorrendo la 4, ormai sono a Verona e qua si vedono solo che camion, a parte qualche rara autovettura. Il discorso che volevo affrontare io è un po' più particolare, cioè io sto andando verso Como Chiasso a sdoganare a Merce, transito in Svizzera, entro in Francia, ho 4 clienti se ben ricordo in Alsazia, dopodiché devo andare a scaricarne 2 in Belgio, zona Bruxelles, anzi sono 3, e sono mobili, io trasporto mobili, quindi bene o male c'è anche un certo contatto, c'è altrettanto rispetto anche con i clienti, per l'amor di Dio. Ho meno problemi di chi fa i lavori industriali che ho sentito fino adesso in trasmissione. Senti una cosa, ma il fatto che tu vieni dall'Italia è secondo te un indice di sospetto maggiore? C'è questo tipo di idea che dall'Italia viene gente che porta l'infezione? Guarda, Tiro, la settimana scorsa ero anche in Francia e la buttavano forse ancora un po' sul ridere. Ho visto uno che si è messo la mascherina così ridendo, uno che conosco, ci vado, non dico tutte le settimane. Ah, per prenderti in giro così. Al mese, sì. La buttano un po' sul leggero come facevamo noi 2 settimane fa anche, sì, non è che sia un comportamento incomprensibile, anche loro sono così. Poi il problema è anche in Francia, io la settimana scorsa mi sono ritrovato a mangiare in trattoria come faccio sempre, di solito mangio sempre in trattoria sia a pranzo che a cena perché a me piace così, non è che vado lì a risparmiare con il fornelletto sotto il camion, e mi sono ritrovato a 50 centimetri, a mangiare a 50 centimetri l'uno dall'altro con tutti gli altri, perché in Francia noi camionisti ci fanno sedere tutti insieme in queste trattorie. Mi confermi russie, quella che è l'impressione che viene riportata da vari organi di stampa, da vari colleghi, che è graduale, il livello di attenzione è graduale, man mano che si espande l'infezione generale, la percezione del pericolo, la gente poi cambia atteggiamento. E tu l'hai detto, in Francia si comportano come ci comportavamo noi una settimana fa, fra una settimana come ci comporteremo noi rispetto ad altri che probabilmente si stanno già comportando in modo diverso. Melog 800 24 0024, stiamo ancora dando voce ai camionisti che ci chiamano e ci esprimono i loro disagi. Sono i disagi di una categoria, sono i disagi di persone che hanno vite quotidiane lievemente diverse da quelle della media, della maggior parte degli italiani. Abbiamo Massimo, provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Io ho telefonato per fare un appunto ai camionisti invece, perché loro saranno discriminati dalle ditte dove vanno a caricare, non li fanno entrare nella ditta. Noi invece, e poi ti dico che categoria siamo discriminati dai camionisti. Io faccio la scorta. Come discriminati da camionisti? Perché? Esatto, perché io faccio un lavoro un po' particolare, faccio la scorta ai trasporti eccezionali, sono quelle macchine che precedono o che seguono un trasporto eccezionale, quei camion magari giganteschi che vanno in giro, oltre che, vabbè, tra virgolette, in questo periodo non so cosa possa servire, cosa sia essenziale portare in giro, non so, una trivella che deve fare uno scavo. Comunque i camionisti che ci devono dare dei permessi per vedere, che noi dobbiamo controllare i loro permessi, se hanno il permesso di viaggiare su determinate strade, autostrade o statali, aprono quel finestrino 2 centimetri e ti buttano giù i loro permessi e poi ciao. Poi è tutta Questo nostra... l'hanno detto tutti, però sai, è un momento difficile. Vorrei vedere come ci potremmo comportarci noi se venisse il postino a bussarci alla porta e ci dà la ricevuta da firmare, cosa che non accade più perché viene lasciato l'avviso, uno deve andarla a prendere direttamente alle poste. Fa parte della paura generale che indubbiamente c'è, è inutile che facciamo finta che siamo tutti affratellati in un grande anelito comune. Siamo tutti diffidenti, abbiamo tutti paura, difendiamo tutti i nostri cuccioli, il nostro branco. Saremmo pronti a saltare addosso a chiunque mettesse in questo momento a repentaglio la nostra sicurezza. Quindi direi che ancora questi sono indicatori piuttosto marginali, fastidiosi per chi li subisce, figuriamoci. A tutti pesano gli sguardi diffidenti quando fai la fila per il supermercato, che la gente ti guarda un po' male se ti avvicini troppo o se non mantieni tutte le norme di sicurezza necessarie, se ti attardi troppo alla cassa, però fa parte del momento critico. Nel momento critico gli uomini si comportano così. Immaginate un gruppo di esseri umani su una zattera alla deriva. Prima o poi saltano uno addosso all'altro. Speriamo di non arrivare in questa condizione, speriamo che la civiltà prevalga, però ci sono dei momenti in cui non è tutto come prima, di questo dobbiamo renderci conto. Valentino da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, mi sente? L'ascolto. Sì, sì, salve. Allora, si parlava prima delle tutele, no? Noi, come hanno detto i miei colleghi, viaggiamo un po' dappertutto, mettiamo le mani dappertutto, mettiamo i piedi dappertutto. La sera, dopo 2 giorni, dobbiamo tornare a casa, incontriamo la famiglia, non sappiamo come è andata a finire, abbiamo preso o non abbiamo preso. Questo è lo stress che ci macina tutti i giorni. Il discorso è che prima, cioè, i decreti si vedono, tutti in televisione, tutta piena, robe varie che abbiamo fatto, abbiamo dato, sinistra e destra. Però quando tu vai sul campo non c'è niente. Prima sui autogrill c'erano i disinfettanti, tu arrivi adesso in autogrill non c'è più. Tu vai in bagno, ti fai quello che devi fare, quando torni in giornata, perché la sera sono chiusa, non c'è più un disinfettante, non c'è un goccio di alcol, non c'è niente. C'è un autogrill, non può avere un goccio di alcol, non può avere un disinfettante, un autogrill grande che entrano decine di persone al giorno, magari adesso entrano... No, tu stai riferendo un problema di cui abbiamo già ampiamente parlato, ce ne facciamo portatori. Chi gestisce gli autogrill sappia, ascolti, che esiste una categoria di cittadini in questo momento denuncia qualche difficoltà, e chi può provvedere, che ci ha ascoltato, speriamo che su questo prenda qualche provvedimento. È vero, si arriva nell'autogrill, occorre avere tutti i presidi di sicurezza che si hanno nei posti che civilmente si frequentano, nelle redazioni dei giornali, cioè dovrebbe essere, diciamo, un impianto di sanificazione costante per le persone che frequentano, come negli uffici, come nei luoghi frequentati da persone, nei supermercati già c'è, ti danno i guanti quando entri. Giovanni, provincia di Livorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Sì, io volevo lanciare un appello, intanto complimenti per la trasmissione. Volevo lanciare un appello basato su quello che hanno detto i miei colleghi per i documenti che li lanciano dalla finestra. Sì, eccetera. Mi sembra il problema costante, hanno tutti detto questa cosa del lancio dei documenti, ecco, riferisce tanto. Invece, proprio in base a quella trasmissione che ci date lo spazio, che volevo comunicare proprio a livello di inquinamento, siccome vengono stampati quasi 11 mila miliardi di fogli fra bolle d'accompagnamento, fatture, packing list, sarebbe bene che si farebbe una campagna su questi documenti che non servono a niente e potrebbero inviarli tramite email e si stamperebbero meno fogli, ci sarebbe meno inquinamento e il lavoro sarebbe più veloce. Io faccio un'idea. Lei suggerisce, fra i tanti correttivi alle nostre abitudini inveterate che sembravano irrinunciabili, che stiamo facendo, ci accorgiamo, possiamo fare a meno degli aperitivi, meno di prendere l'automobile, meno di dover necessariamente vedere tante persone, tante cose stiamo facendo a meno di cure estetiche, di massaggi, di tutto possiamo fare a meno. Lei dice, potremmo fare anche a meno di trasferirci tante informazioni su carta, che non ha senso quando può essere inviata in forma elettronica, e speriamo che qualcuno ne tenga conto. Abbiamo un intero apparato burocratico da riformare in questa direzione, speriamo questa sia l'occasione buona. Gonzalo da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Yo vorrei raccontare una que me sucedió hoy porque es una contradicción siempre. Allora, sí. El gobierno ci ha detto, lasciamo le fabbriche aperte, lasciamo il trasporto, tutto che funziona, ok. A patto che rispettiamo le norme di igiene e facciamo tutto il protocollo che deve farsi comunque in questa emergenza. E questo cosa mi succede? Sembra chiaro. Esatto. Questa mattina sono andato da un cliente a scaricare, sempre qua in provincia di Treviso, e sono arrivato, ovviamente lavoro e mi viene il bisogno di far, per amor di Dio, io non mi fermo sulla strada perché a parte che mi sembra antigienico, mi prendo una multa se mi piscio sulla strada per parlare con parole povere. Sì, ma quindi, comunque si è capito il concetto, sì. Esatto, quindi quando sono arrivato là ho chiesto al cliente, ho detto per favore mi presti il bagno, loro sempre me l'hanno prestato, sempre, mai avuto nessun problema, anche per legge ogni azienda deve avere un bagno a disposizione degli autisti esterni. Questa mattina mi ha detto no, da oggi non puoi entrare. Gli ho detto va bene, ok. Allora sono andato fuori, mi sono pisciato sul piazzale. Va bene. Ho finito e gli ho detto posso entrare a lavarmi le mani? Mi ha detto no, neanche qua puoi entrare a lavarti le mani. Allora ho detto va bene, nessun problema. Ho chiamato nella mia azienda e gli ho detto a loro. Io non vado più da quelle parti perché loro non stanno rispettando le norme di igiene. Vabbè, Gonzalo ci ha dato la chiosa che ci aspettavamo, che debba servire un po' a monito, un po' in direzione di porre qualche rimedio a questi disagi, minimi per qualcuno, grossi per altri, che hanno i nostri trasportatori. E qui oggi abbiamo dato piena possibilità di esprimerli. Domani ci occuperemo di un'altra categoria. A domani.